Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, si ricomincia oggi con la Serie B alle 18, domani con la A che prende il via alle 12.30 da Verona, un orario inconsueto per Chievo-Inter, e si conclude poi alle 20.45 con Milan-Genoa San Siro, essendo passata attraverso alle 15 il resto delle 8 partite che mancano. Un anno che culminerà poi nel Mondiale in Sudafrica, 11 giugno, 11 luglio, e che ricomincia con il seguente programma. Allora, oggi pomeriggio, ripeto, alle 18, ancora Triestina, Crotone Cittadella, Empoli Sassuolo, Frosinone Ascoli, Lecce Vicenza, Modena Cesena, Padova Albino Leffe, Piacenza Gallipoli, Regina Grosseto, Torino Mantova e il posticipo 20:45 Salernitana Brescia. Domani invece in Serie A, vi dicevo di questo secondo esperimento che poi dal prossimo anno è destinato a diventare un appuntamento fisso, quello delle 12, 12:30, 13, insomma si sceglierà esattamente, ma probabilmente sarà davvero 12:30 come domani. È successo una volta sola finora nella storia dei nostri campionati ed era il 6 gennaio, quindi domani, l'epifania del 2000, 10 anni fa. Con un Parma-Juventus. Il programma di domani prevede per l'appunto alle 12.30 Chievo-Inter a Verona, diretta da Pierpaoli di Firenze, poi alle 15 Atalanta-Napoli con Rosetti, Bari-Udinese con Mazzoleni, Cagliari-Roma diretta da Rocchi, Catania-Bologna da Trefoloni, Lazio-Livorno da Giannoccaro, Parma-Juventus da Rizzoli, Parma-Juventus esattamente come 10 anni fa, Sampdoria-Palermo da Romeo, Siena-Fiorentina da Celi. Chiusura serale a San Siro, Milan-Genoa alle 20.45 con la direzione di Orsato. Tra gli argomenti sul tappeto, non tanto l'allarme meteo che è leggermente rientrato con le previsioni delle ultime ore, ma in ogni caso sì, i problemi di gelo, i problemi dei campi, che certamente non si sono giovati di queste condizioni meteorologiche, peraltro vagamente prevedibili in Italia, soprattutto nel periodo invernale, soprattutto al nord. D'altra parte nevica in buona parte d'Europa, è stata appena rinviata una semifinale di Coppa Inglese tra Blackburn e Aston Villa in programma oggi per abbondanti nevicate. Il terreno, come sempre accade a quelle latitudini, era perfettamente in grado di ospitare il match, ma la polizia locale ha optato per il rinvio della partita perché ci sono gravi difficoltà di spostamento in tutto il nord dell'Inghilterra. E questo insomma, è il benvenuto, è un modo di dare il bentornato e il buon anno a Fabio Tavelli. Grazie, buongiorno a tutti, tanti auguri intanto. Fabio, mi pare che proprio la Premier League sia stata un po' l'epicentro dell'interesse di questi giorni, di questa decina di giorni in cui là si è giocato abbondantemente, si è ripreso già a giocare anche in Spagna, per la verità, però ne sono successe tanti in Inghilterra e tra l'altro ci sono storie abbastanza curiose di allenatori. Comincerei da quello del Bolton, perché se non altro è un risvolto regolamentare che là è applicato in un certo modo e da noi in maniera diversa. Tra l'altro io, mentre tu parlavi, stavo vedendo le foto di Wood Park per quanto riguarda la partita di Carling Cup tra il Blackburn e sì, l'Aston Villa, ed effettivamente il terreno di gioco è perfetto, cioè si potrebbe giocare, si potrebbe anche stare in tribuna onestamente, perché le tribune sono completamente coperte e quindi è abbastanza normale che non vengano invase dalla neve, però effettivamente fuori è un disastro, per cui è così, è giusto che la polizia abbia deciso di non concedere l'agibilità. Direi non è tanto l'agibilità del campo, ma è l'agibilità complessiva, perché questo è molto importante per loro, cioè il grande rispetto per il pubblico per loro viene prima di molte altre cose. Certo. Nonostante siano un paese, gli inglesi, che sono stati tra i primi a dedicarsi a livello di Lega al denaro delle televisioni, quindi anche lì diciamo che il potere della televisione in questo caso è inferiore, nonostante venga da più lontano. No, la storia, cioè, ce ne sono state tante di storie inglesi, io partirei da questa, cioè da parte di Owen Coyle, che è il manager del Burnley, che diventerà il manager del Bolton, perché allora, il Bolton ha esonerato Maxson dopo il Boxing Day. Sì. Il Bolton è una squadra di medio-bassa classifica, in questo momento bassa classifica, ha un paio di partite da recuperare, però le ha da recuperare contro Arsenal e Manchester United, quindi probabilmente non porterà tanti punti a questi recuperi. Ha deciso di cacciare Maxson e tra i tanti nomi che si erano fatti per la sua sostituzione c'era anche quello di Owen Coyle, che è l'attuale allenatore del Burnley. E la storia è che un campionato come quello italiano non è consentito, viceversa in Inghilterra è consentito pagando una compensazione che sarà superiore ai 3 milioni di sterline, e quindi Coyle andrà ad allenare il Burnley andrà ad allenare il Bolton nel corso della stessa stagione sportiva. Sarebbe sì. Come se, non lo so, il Catania al posto di prendere Mihajlovic per sostituire Azzori avesse chiesto e ottenuto dal Chievo di assumere Di Carlo, e Di Carlo fosse andato pagando appunto questa compensazione, come fosse un giocatore. Sì, io credo che con questo regolamento Spalletti non so se sarebbe andato allo Zenit di San Pietroburgo. No, probabilmente sarebbe andato alla Juventus. Così adesso, ma forse nelle prime 3-4 giornate sarebbe già andato al Milan, perché ricordo le invocazioni di allora, no? Quando sì, c'erano gli inizi difficilissimi di Leonardo, e Spalletti, subito licenziato dalla Roma, aveva creato quelle suggestioni. Sì, può darsi. Io ricordo ad esempio qualche anno fa, quando il West Ham era allenato da Alan Pardew, era l'anno dell'arrivo di Tevez e Mascherano, poi Mascherano metà stagione andò al Liverpool e fu un anno davvero disgraziato. Loro presero Alan Kirbishley praticamente scambiandoselo dal Charlton, cioè Pardew andò al Charlton e Kirbishley andò al West Ham. Andò bene al West Ham perché si salvò all'ultima giornata, soprattutto perché aveva Tevez in campo, direi, certo. E invece il Charlton poi è retrocesso ed è... Certo, poi è scivolato giù in terza serie. Senti Fabio, però se parliamo di allenatori, non è per essere per riportare l'attenzione sugli italiani ad ogni costo, ma insomma, se parliamo di allenatori italiani in Inghilterra, mi pare che questo sia il grande momento di Mancini. Sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Lui è stato quando ha fatto la conferenza stampa di presentazione, ha dovuto anche abbastanza difendersi, nel senso che i colleghi inglesi l'hanno molto incalzato. Lui non è popolarissimo, nel senso che non è conosciutissimo in Inghilterra, in Premier League ha giocato qualche partita, ma cioè diciamo che il suo palmarès in Premier League non era conosciutissimo, anche perché la stampa poi nei giorni precedenti, nel giorno in cui Hughes era messo in discussione, continuava a parlare di Mourinho, di Hiddink e così. E oltretutto Mancini ha dovuto scontrarsi con una sorta di piccolo grande ostracismo da parte di alcuni giocatori che erano molto legati a Mark Hughes. Mancini ha fatto due partite di campionato e le ha vinte tutte e due senza prendere gol, ha giocato in FA Cup e ha vinto 1-0 senza prendere gol, quindi praticamente lui ha fatto 3 vittorie, 6 gol fatti, 0 subiti, con una squadra che invece, mentre era Hughes ad essere allenatore, prendeva gol da tutte le parti. Ora è perfettamente in linea per il suo target, cioè il quarto posto, in questo momento sì. Ha 2 punti da recuperare dal Tottenham e anche una partita in meno, quindi secondo me meglio di così proprio non potrebbe aver iniziato Mancini. Adesso però, domani sera, tempo permettendo, giocherà la semifinale d'andata di Carling Cup contro il Manchester United, e diciamo che quella sarà una prova un po' più attendibile, perché fino adesso non ha incontrato grandi avversari. Una prova molto impegnativa per entrambi, perché è ovvio che per Mancini, hai detto tu, è il primo ostacolo alto da quando è arrivato in Inghilterra, facendo fino ad ora molto bene. Per Ferguson è qualcosa di molto meno da un lato, però di significativo e non poco dall'altro. Tempo di sport. Quando vedo Fabio Tavelli su Sky, scrive Alessandro da Livorno, mi sembra di vedere uno di famiglia. Questo è un bel complimento, Fabio. Grazie. Direi. Senti, grazie. Già che ci sono, poi arriviamo a Ferguson, un'altra cosa che arriva via posta. Silvio dice, mi risulta da amici spagnoli che a Madrid non siano poi così contenti di Kakà. Parentesi mia, e te credo. Sì, risulta anche al ministro degli esteri, domanda risulta, Silvio. E credo che l'insoddisfazione sia anche di Kakà, ma perché lui si aspettava di avere un impatto diverso. il Real Madrid è per il momento una grande incompiuta. Io credo che, cioè, tutti noi pensassimo seriamente che nei primi sei mesi Pellegrino non potesse mettere insieme una squadra immediatamente convincente. Il fatto che siano ancora in corsa, non più per la Coppa del Re come sappiamo, ma comunque per gli obiettivi grandi, cioè il campionato e la Champions League, mi porta a pensare che si debba ancora sospendere il giudizio. È un dato di fatto però che le grandi stelle per adesso non hanno, ma per motivi abbastanza spiegabili, oltre all'inserimento c'è anche una questione fisica, sia Cristiano Ronaldo che Kakà hanno avuto grossi problemi fisici, non sono mai riusciti a dare continuità alla loro presenza, anche una continuità fisica, non soltanto tecnica o sì, di chimica, e questo evidentemente ha nuociuto. Credo anche che Kakà pensasse di vivere un po' meglio a Madrid, cioè si aspettasse di più complessivamente, non solo dalla squadra, cioè lui pensasse di andare a Madrid e oltre che climaticamente trovarsi anche meglio complessivamente, cioè pensava di andare lì e sorridere un po' di più, evidentemente non gli sta ancora. No, fino adesso non gli sta riuscendo molto, né riesce ai madridisti quando pensano a Kakà. Torniamo a Ferguson, che ha vissuto una delusione cocente nei giorni scorsi, e adesso io non vorrei cominciare con le proiezioni in prospettiva rispetto al Milan, rispetto alle coppe eccetera, ma non c'è dubbio che questo Manchester sia un pochino diverso da quello dell'anno scorso. Manchester è un avversario molto più abbordabile, io sinceramente a me spiace citare, non voglio farlo quasi mai, però noi è da inizio stagione che diciamo che quest'anno le inglesi sono più deboli, non a caso già una è andata fuori e io ho la sensazione che ne perderemo altre prima delle semifinali, ne perderanno altre prima delle semifinali, perché insomma credo che solo il Chelsea in questo momento, nonostante la flessione, sia una squadra credibile per una vittoria finale della Champions League. Il Manchester United ha dei problemi mostruosi in difesa, purtroppo c'è anche un problema serio sul portiere, perché come tutti sapete Van der Sar certo, si è fermato per i problemi della moglie, e questo oltre che davvero dei grandi auguri, crea un problema serio. Il Manchester United può spendere pochissimo, notizia di ieri che ha dovuto emettere un bond, cioè un prestito obbligazionario perché ha bisogno di denaro per ripianare i debiti, non a caso tutti i soldi presi dalla cessione di Cristiano Ronaldo non sono stati investiti, cioè non hanno preso un giocatore, non dico equivalente, ma uno, un crack, hanno preso Valencia, l'hanno pagato tantissimo, forse troppo, ma non sono andati pesantemente sul mercato. Non dimentichiamoci che Ferguson gioca praticamente senza difesa da un mese, e quelli che gli rientrano come Wes Brown contro il Leeds giocano a volte anche in maniera imbarazzante, quindi la verità è che se il Manchester United gioca con gli 11 migliori e sono sempre quelli, diventa una squadra complicata da battere, ma non imbattibile. Se invece gliene mancano 3-4, la squadra pesantemente ne risente, e infatti io credo onestamente che a livello di proiezione europea il Manchester United non sia tra le 3-4 grandi favorite per la vittoria della Champions League. Detto questo, l'aggancio era l'eliminazione contro il Leeds, che noi ad esempio abbiamo fatto un titolo in una edizione del telegiornale dicendo: tranquilli, non è un titolo di 10 anni fa, cioè non state vedendo un'edizione, anche perché 10 anni fa non c'era Sky Sports 24, ma perché il Leeds è proprio un po' sparito dalla grande geografia del calcio inglese, gioca in quella che noi chiameremmo Lega Pro, la sta dominando e io credo che tornerà nel Championship, ma è una squadra che insomma, a me è capitato tra l'altro in questi giorni di leggere il maledetto United, che racconta questi pochi giorni nei quali Brian Clough ha guidato il Leeds United, insomma curiosamente l'ho finito di leggere proprio la mattina della partita, poi il pomeriggio ho visto la gara con un commento fantastico da parte del nostro amico Nicola Roggero. E insomma il gol che ha segnato Beckford, la possibilità per il Leeds di segnare anche il gol del raddoppio, questo assalto generosissimo finale del Manchester United ci ha mostrato la bellezza, la magia delle fake up del calcio inglese, di queste partite nelle quali onestamente non raramente accade che le piccole vadano a vincere sul campo delle grandi. Poi se consideriamo che il Leeds comunque ha una grandissima storia, una storia anche di grandi sconfitte, perse un titolo nel 65 contro il Manchester United per differenza reti negli scontri diretti, cioè quindi è una squadra che ha una grandissima tradizione. Dunque, per le telefonate io direi che ci, insomma, lo spazio lo diamo all'800 24 00 24, in particolare nella seconda parte del programma. Questo messaggio però mi piace, firmato Vincenzo, che scrive: in Italia se ne via le partite per neve e siamo il solito paese da terzo mondo. Se succede in Inghilterra si dice che lì c'è rispetto per il pubblico. È proprio vero che l'erba del vicino è sempre più verde. Beh, Vincenzo, questo è sicuro, cioè che l'erba del vicino sia più verde della nostra è molto più verde, non si fa fatica. Il rispetto per il pubblico, sì, c'è un'inchiesta su Genoa Bari, per esempio, tanto per non andare lontani. Credo che non ci sarà su Blackburn. Cosa? Ma non perché gli inglesi insabbino, semplicemente perché qui c'è un allarme meteo generale che riguarda tutto il nord dell'Inghilterra. Per dire, Genoa Bari, per esempio, ha smesso di nevicare da sole 36 ore e la latitudine di Genova è discreta, la lontananza di Marassi dal mare è addirittura di un chilometro e mezzo circa in linea d'aria. Quindi pensi un po' in che condizioni disperate è stata rinviata, per esempio Genoa Bari. Torniamo lì dove l'erba è più verde, Fabio. Dimmi. No, io credo che, allora, intanto il fatto che anche in Inghilterra qualche partita sia del campionato scozzese, che ha una latitudine anche superiore, sia del campionato inglese, perché comunque una partita di Premier è stata rinviata, non debba farci consolare, dicendo: beh, vedi, accade anche là, quindi è inutile che diciamo male del nostro paese. Non si dice male del nostro paese, è il sistema calcio che non funziona, perché bastava vedere le tribune dello stadio di Firenze e prendere una foto. Prendiamo la partita Fiorentina-Bologna non giocata e prendiamo la foto di Blackburn Aston Villa non giocata. Il problema non è il fatto che il questore di Firenze intervenga anche quasi in diretta televisiva e dica: non facciamo vedere, la partita non si deve disputare perché è a rischio l'incolumità degli spettatori, perché potrebbero scivolare sui gradoni. Perfetto, io dico molto bene, la prossima volta costruiamo una bella copertura, così l'incolumità è completamente garantita. Certo. Ma non però costruiamola bene, non come quella di San Siro nel 90, che non fa più respirare il prato e ogni due settimane c'è l'erba da buttar via. Quindi allora gli inglesi le sospendono perché, intanto per proteggere coloro che vengono da fuori, da coloro che seguono in trasferta la squadra, che avrebbero dei grossi disagi, certo, a raggiungere le sedi delle partite. Lo dicono leggermente prima, perché io so di molti tifosi del Milan che erano, io chiedo scusa, prima ho detto Fiorentina-Bologna, in realtà Fiorentina-Milan, so di molti tifosi del Milan che erano già partiti, ma lo stesso Milan era già partito per andare in treno per andare a Bologna. Cioè, queste non sono decisioni che puoi prendere alle 5 del pomeriggio per una partita che si gioca alle 6, queste sono decisioni che puoi prendere serenamente alla mattina o anche il giorno prima. Direi proprio di sì. Senti, c'è una notizia che arriva dall'Inghilterra e poi facciamo una conclusione spagnola. Secondo il Sun non è il Vangelo, lo sappiamo, però ogni tanto ci prende. Secondo il Sun, Capello sta per subire in Italia un intervento al ginocchio, alla rotula della gamba sinistra, il che comporterebbe, sempre secondo questa indiscrezione, 6 settimane di stampelle e almeno 3 mesi per la mobilità completa. Ora, per carità, niente che possa compromettere il mondiale, a parte che Capello non gioca più da tempo, ma in ogni caso, insomma, un contrattempo non imprevisto, perché povero Fabio zoppica sempre di più, basta vedere, è un contrattempo in ogni caso notevole sulla strada sul cammino delle non più qualificazioni ma amichevoli e tutto il resto. No, un contrattempo serio, anche perché Capello è uomo di campo, nel senso che è uno che va molto in giro a vedere le partite tutte le settimane, esatto. ma prima e dopo i pasti anche. Lui vive in totale simbiosi con il suo lavoro ed è anche per questo che lo sa fare molto bene, come pochi altri, per cui evidentemente questa è una cosa decisamente negativa. Ci saranno un paio di partite amichevoli, è chiaro che si farà aiutare, però è altrettanto chiaro che non è il modo migliore per preparare il mondiale. Credo che poi alla fine la cosa non impatterà in maniera troppo negativa sull'Inghilterra, perché lui comunque in questi anni ha lavorato talmente bene da aver creato un meccanismo e aver creato un sistema organizzativo che funziona a prescindere. Però insomma, vederlo magari con le stampelle o non in mezzo al campo a dirigere l'allenamento, cosa che lui fa ancora e che molti altri suoi colleghi non fanno, certo. è senz'altro una cosa curiosa. Facciamo anche a lui gli auguri di riprendersi immediatamente. Ma questo è evidente. Dunque, ci sono due possibili spiegazioni per quel mezzo passo falso del Barcellona che torna in patria da campione del mondo, si ripresenta al Camp Nou, fa una gran festa prima della partita, e questa è la prima spiegazione possibile. La prima, secondo me, è la più credibile. Esattamente, non la seconda, perché non c'è nessun Barcellona al mondo che può permettersi queste robe, che portano una pegola, avrebbe detto il Paloma, storica. L'altra però me la segnala Franco Piantanide ed è questa: dal 98, dal suo primo anno in Liga, il Villarreal, giocando contro il Barcellona, ha fatto 8 vittorie e 8 sconfitte con 5 pareggi ed è l'unica squadra che può vantare un bilancio di questo genere nei confronti del Barça. Allora, guarda, io credo comunque, nonostante questa annotazione interessante, credo ancora di più alla prima, nel senso che sono tutte e due cose irrazionali, cioè le squadre sono cambiate. Esistono le tradizioni, cioè ci sono squadre che per motivi inspiegabili, anche quando cambiano tutti i giocatori, poi comunque in alcuni stadi, in alcuni campi, riescono sempre a ottenere dei risultati positivi. Secondo me la combinazione del festeggiamento, mancava Leo Messi, queste 6 coppe viste, vinte e viste, esposte, festeggiate, segni subito, perché anche questo non dobbiamo dimenticarci che Pedrito ha segnato dopo 7 minuti. Io credo che mentalmente il Barcellona abbia un po' mollato in questa partita, perché Villarreal non solo ha pareggiato, ma anche avrebbe potuto pure vincere. Certo, sicuramente. E questo secondo me è una spiegazione che è più intrinseca alla partita e all'ambiente di quel giorno. Cioè, quando tu festeggi molto e poi segni subito, cioè di fatto mentalmente esci un po' dalla partita, poi fai molta più fatica a rientrare in una partita dalla quale sei uscito senza dare spiegazioni tecniche. Oltretutto Guardiola ha detto una cosa molto interessante su Ibrahimovic, ha detto Ibrahimovic è troppo nervoso, si è fatto ammonire, verrà squalificato per la partita di Tenerife, ma non è quello. Lui ha raggiunto la quinta ammonizione, ma dice soprattutto fa degli interventi anche in mezzo al campo che non sono da Barcellona, nel senso che non c'è bisogno di andare con quella cattiveria a intervenire magari al centro del campo. Ibrahimovic invece evidentemente ha ancora qualche residuo di altri campionati. E quando un allenatore così giovane può permettersi di rimproverare in maniera così ferma, no, non plateale, perché poi Guardiola è educatissimo, in maniera così ferma un giocatore del calibro di Ibrahimovic, vuol dire che l'ambiente è sano e che tutto sta davvero, davvero funzionando. Grazie a Fabio Tavelli, allora. Grazie, buona giornata e tanti auguri ancora a tutti. A tempo di sport. C'è stato anche mercato in questi primi giorni dell'anno, altro ancora ce ne sarà. Per esempio, leggo da un'agenzia in arrivo da Londra che Vieira è sempre più vicino al Manchester City, perché in queste ultime ore Mancini, che lo vuole, non dico ad ogni costo, ma insomma che insiste molto per averlo, per l'appunto ha incaricato la società di stringere le trattative. Altri giocatori sono già arrivati, e allora sentiamo, per esempio, per cominciare, la valutazione, l'opinione che Ranieri ha di Toni, soprattutto alla luce del fatto che domani a Cagliari Toni dovrà fare la parte sua e la parte di Totti, che non è stato convocato. Qualcosa cambierà, perché ha caratteristiche totalmente differenti da quelle degli altri attaccanti, per cui una Roma con Toni sarà una Roma un po' diversa. Le sue caratteristiche si devono sposare con quelle degli altri. Prima eravamo abituati in una certa maniera, ma giocando poi ogni 3 giorni, insomma, c'è spazio per tutti, per cui l'importante è continuare a far bene. Abbiamo chiuso l'anno bene, adesso andremo ad affrontare una partita difficile. Beh, se c'era una squadra che avrebbe fatto a meno della sosta, ma questo lo si è detto prima, era quasi certamente la Roma di Ranieri, che ha trovato il passo giusto prima di questo stop, al contrario per altre, insomma, ma lo stop era previsto per altre ragioni e certamente non è mirato sulla condizione dell'una o dell'altra squadra. Un'altra delle novità, questa non assoluta perché è un cavallo già di ritorno, è quella che riguarda Beckham, e sentiamo Leonardo alla vigilia di Milan-Genova, ma a proposito in particolare di Beckham. Credo che David, come un po' l'abbiamo lasciato, credo che nel senso buono, perché David credo che riesce ad essere molto costante in quello che è il suo comportamento, quello che è il suo impegno, quello che è la sua visione, diciamo, del gioco, credo che, e lo vedo molto motivato, quello anche prima, lui ha una motivazione sua veramente importante, era tornato proprio alla grande. E questo era Leonardo. Spazio ai vostri interventi adesso. Pierpaolo Novara, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Volevo tornare su Mancini, il discorso. Mi piacerebbe sapere cosa è cambiato rispetto all'allenatore precedente. Questo no, non glielo so dire, ma guardi che gli allenatori che arrivano, cioè, salvo rare eccezioni e salvo la possibilità di un lavoro in profondità fatto magari in una sosta invernale lunga, che per esempio in Inghilterra non c'è, guardi che spesso e volentieri non cambiano nulla, eh. Cambia la psicologia, cambia il rapporto, cambia, c'è la famosa scossa, la famosa ventata, il fatto di la presa di responsabilità dei giocatori, queste fregnacce che ci sentiamo ripetere da decenni e che in parte, in certi momenti possono essere veri, in certi altri fanno parte del grande circolo di stereotipi, no? Di cui il calcio si nutre, non solo da noi, poi noi abbiamo come esempio il record assoluto di questo genere di cose, di sostituzioni per esempio, ma stanno cambiando, lei lo ha visto e sta citando Mancini, quindi stanno cambiando in Inghilterra, stanno cambiando anche da altre parti, seppure non nella stessa percentuale. Per ora mi pare di aver letto, perché non avevo idea di come, ho visto una volta il City adesso e non avevo idea di come giocasse prima, ho letto e ascoltato i commenti di Sky, soprattutto nella prima partita ha giocato esattamente con gli uomini e con lo schieramento e col modulo che adottava Hughes, ha anche giocato contro, lo ha ricordato bene Fabio Tavelli prima, ha anche giocato contro squadretta finora, quindi adesso può arrivare il difficile, ma certo se arriva il difficile dopo una serie già di vittorie, beh, arriva con una squadra che ha ripreso convinzione morale, se non altro, che in qualunque sport, non solo nel calcio, sono un bel additivo. Domenico Frosinone, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Grazie per avermi chiamato. Io sono quel signore di Frosinone che l'ha chiamata l'altra volta, il pastore della provincia di Frosinone. Ah, beh, una leggenda, Domenico. Bentornato e buon anno. Grazie, lei mi dice se potevo richiamare. Io, nella mia possibilità, ho cercato di richiamarti. Io volevo un attimino, non so se spostare il discorso, se vado fuori tema. Ecco, io tutti quei soldini, tutti quei contratti che sento, io amo il calcio, Garanzini, io è un passatempo, l'unico forse passatempo è hobby che ho nel mio gregge, però tutti questi miliardi, tutti questi campioni, per me è una cosa, io non riesco più a sopportarla, quando i miei amici anche a me dicono, dice Domenico, tu nel tuo mestiere sei un campione e io non riesco ad arrivare alla fine del mese, Garanzini, mi devi credere, tutto questo. Buon anno e tanti auguri, grazie. Buon anno a lei, Domenico. Pensi che lei è un pastore di pecore? Io mi ricordo il suo intervento della volta scorsa, che tra l'altro aveva riscosso un indice di gradimento altissimo tra gli altri ascoltatori collegati quel giorno. Lei governa le pecore. Brera sosteneva che i calciatori sono in genere, spesso e volentieri diventano pecore matte, quindi lei, credo che pochi meglio di lei possano capire che cosa significa questa espressione. Pecore care, oltretutto, indubbiamente pecore strapagate, su questo c'è poco da dire. Il calcio non è più uno sport, è uno spettacolo da tempo, è un fenomeno in cui si intrecciano appunto spettacolo, marketing, interessi colossali. Ed è normale alla fine, io trovo abbastanza normale che i protagonisti, che gli attori siano pagati in maniera abnorme, sono d'accordo, però tutto questo è frutto di questo cortocircuito, no? di cui il calcio è preda. Domani io non so cosa farebbe lei se fosse a Verona domani, se potrebbe abbandonare le sue pecore e le sue capre per andare alla partita alle 12:30, però leggo che questa, ripeto, novità non assoluta, perché esattamente 10 anni fa, l'epifania di 10 anni fa, si giocò Parma-Juve alle 13, quindi appena mezz'ora più tardi, Non so se potrebbe permettersi per i ritmi biologici delle sue assistite di andare allo stadio. C'è comunque curiosità per questo che è non tanto un esperimento quanto un'anticipazione di quello che poi accadrà in futuro. Sky ha già detto chiaro che dal prossimo anno vuole la partita a quell'ora e dopo un rinvio di una stagione o forse due l'avrà per evidenti ragioni commerciali, perché con tutti i soldi che Sky paga per questo spettacolo, a parer mio sempre meno affascinante, anche per i posti in cui, per i teatri in cui si gioca, cioè degli stadi insomma, che ormai gli aggettivi li conosciamo, e per i campi su cui si disputano le partite, io credo che con la valorizzazione televisiva che hanno e a che prezzo, credo che chi paga abbia, in questo caso Sky, abbia il diritto di dare qualche regola. Petrucci, presidente del CONI, ha appena dichiarato: a me questo orario non dispiace, è originale, altre federazioni lo hanno già adottato con successo, penso quindi che possa avere successo anche in Italia. Poi Petrucci è intervenuto anche su altri argomenti, vediamo se salteranno fuori nel corso delle conversazioni con voi. Da Cosenza ha chiamato Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, salve. Io a proposito di pecore impazzite, per avere un suo parere circa la questione Panda, per la soluzione che si è avuta, poi la questione Ledesma, in questo senso sempre. Ma lì non sono impazzite le pecore, lì era direi nemmeno il pastore, era proprio era un proprietario, no? di un gregge intero, ma che però non lo gestiva in prima persona, che ha scelto una linea societaria ferma. E le linee societarie ferme sono scelte difficili, come sempre, sono scelte di frontiera, poi possono andare o bene, avere un esito positivo o negativo. Quella di Padel, che abbia avuto un esito positivo per la Lazio, mi sentirei di escluderlo. Mi sentirei di dire che pensavo in un atteggiamento diverso anche da Ballardini, detto tra noi, in questi mesi, che mi è sembrato, come ha scritto Gianni Mura su Repubblica, un po' tanto aziendalista in questa vicenda. È anche vero che l'aziendalismo è corretto, perché lavori con le risorse che la società ti mette a disposizione. Certamente non mi pare che per la posizione presa da Lotito ci sia stato il lieto fine in questa vicenda. Tocca ad Antonio, che ha chiamato da Salerno. Buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. A proposito di quello di cui stava parlando, cioè del fatto che il calcio è diventato fondamentalmente uno spettacolo, non più uno sport. Volevo avere una sua opinione a proposito del fatto che, per come la vedo io, è uno spettacolo per quanto riguarda gli aspetti positivi, cioè andare la domenica a vedere la partita, vedere dei campioni strapagati che vanno in campo, non diventa più però uno spettacolo, ma ritorna uno sport, nel momento in cui però questi grandi signori, che a volte appaiono in televisione come dei martiri, cioè i presidenti, devono prendersi le responsabilità per quelle che sono le loro spese e per quelle che sono le garanzie che devono offrire rispetto a delle aziende che hanno nelle mani, aziende che diventano stranamente, all'improvviso poi diventano diverse rispetto a una qualsiasi azienda che esiste, per cui esistono decreti spalmadebiti, esistono fallimenti, esistono fideiussioni che non si sa, false o vere, non si capisce. Non so se sono stato chiaro rispetto a quello che ho detto. Sì, è stato chiaro, meno che sul fatto che questo ridiventa sport, cioè è uno spettacolo intanto televisivo, non più di stadio, perché insomma mi sembra che anche gli ultimi dati danno un calo ulteriore, continuo, da parte degli spettatori presenti allo stadio. Tenga presente che se facciamo una parentesi su questo, che mi sembra comunque un argomento su cui riflettere, Gli spettatori paganti più abbonati in Serie A sono in leggera flessione, per esempio, rispetto all'anno scorso, ma non poi così significativa. Ma in compenso è crollata la B in una maniera incredibile, e quindi questo significa che il movimento complessivo comunque del calcio professionistico italiano è in flessione. Quanto poi al fatto che le società non siano gestite con quello che il codice civile chiama lo spirito del buon padre di famiglia, credo che non sia una novità epocale questa, e ce ne siamo fatti una ragione da tempo. Anzi, forse oggi c'è persino, per fortuna, qualche piccolo controllo in più rispetto al passato che consente. Che consente, per l'appunto, di avere qualche garanzia in più. Tony non potrebbe forse fare più danno che altro, certi equilibri è meglio non cambiarli, scrive Valerio da Palermo. Si vedrà, Tony è reduce da un periodo molto ma molto difficile, però la Roma, di una punta centrale fisicamente forte, in grado di far coppia con Totti, ma soprattutto di rimpiazzare Totti le volte in cui Totti cede ai problemi di vecchiaia, credo che ne avesse un gran bisogno. A tempo di sport. Le previsioni del tempo per stasera in Serie B innanzitutto, ma soprattutto per domani in A sono abbastanza rassicuranti, e comunque sono molto migliorate rispetto a quelle dei giorni scorsi. C'è stata una specie di correzione di rotta dei meteorologi, sicché domani le temperature minime previste, che sono a Parma, a Bergamo e a Milano, comunque non dovrebbero scendere sotto lo zero. E dato che su quei campi, a Bergamo e a Parma si gioca nel pomeriggio, l'incognita forse è la sera a Milano per Milan-Genova, ma più freddo di Inter-Lazio la vigilia di Natale è difficile che possa essere. A proposito di domani, poi ve lo ricorderò alla fine, domani a Tempo di Sport va regolarmente in onda dalle 14 alle 15, quindi in questa fascia oraria, e quindi potendovi dar conto di Chievo-Inter, del primo posticipo già giocato, poi ci sarà una doppia striscia di commento e di interviste e di valutazioni, una tra le 18 e le 18.30 e un'altra dopo le 22.30. Quindi questo è il nostro programma sportivo, il nostro calendario calcistico dell'Epifania. Tocca a Paolo dalla provincia di Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io non sono un grande appassionato di calcio, però la seguo spesso, mi piace la vostra trasmissione, sono appassionato di sport in realtà. Sì. Io penso di essere una voce fuori dal coro, perché quello che dico io circa i giocatori strapagati, io dico che se un giocatore riesce, o dei giocatori riescono a far affluire allo stadio così tanta gente, a creare intorno al calcio tutto questo interesse, è giusto che si paghino, è giusto che si paghino anche profumatamente. Perché io sono uno che lavora, faccio la gente, guadagno 1.200 al mese, però quando sento la gente, sono strapagati, ma cerca tu di riempire gli stadi e di far è un normalissimo Paolo, penso che sia giusto, no? Paolo, io sono d'accordo con lei, il suo è un normale ma opportuno ripasso delle leggi di mercato. Altro poi è distinguere se certi presidenti, certe società possano permettersi attori di quel livello. E questo poi è tutto un altro paio di maniche, perché è giusto che ci siano più controlli, è giusto che ci siano delle riforme, l'UEFA ne sta studiando una e va bene, ma una legge di mercato io non credo che, le star ci sono in tutte le manifestazioni di spettacolo planetario, no? E quindi non si vede perché non nel calcio, perché non nel basket, perché non nel golf, perché non nello sci, non parliamo del tennis, anche nel calcio. Il calcio è un'anomalia perché è uno sport di squadra, e quindi Ma lì andiamo lontano, e non era certamente mia intenzione oggi ricominciarle con questi discorsi, che poi alla fine sono una rifrittura di aria fritta, non andiamo molto lontano da lì. Pandev convocato per la trasferta di domani contro il Chievo, quindi questa è un'ultima ora di Sky Sport 24 per l'appunto, il che significa che aumentano le probabilità di vedere l'ex giocatore della Lazio subito debuttare con la maglia dell'Inter. Un mio omonimo, Gigi, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Garanzini. Io sono quel papà che tempo fa voleva portare i bambini a vedere l'allenamento del mondo, della nostra nazionale, e c'era le porte chiuse. E avevo ringraziato la nostra federazione Gioco Calcio per quell'invito, sì, che sì, poi non è stato, non so se si ricorda. No. Niente. Comunque io tempo fa mi era già venuto in mente, non so se si ricorda, a proposito dei contratti e degli ingaggi, io mi ricordo forse nel 82, dopo i mondiali, forse c'era ancora Boniperti, presidente della Juve, sì, quando andavano a trattare i singoli calciatori, i loro compensi, i loro contratti, il tempo che in genere ci si metteva per mettersi d'accordo, e credo che siano stati bei tempi, perché adesso basta che un... Erano anche altre regole, abbia pazienza Gigi, cioè allora c'era il vincolo, non era nemmeno difficile, omaggi questa finestra o salti questa finestra. Io ricordo una letteratura agiografica sterminata su quegli anni, presidenti, Boniperti in particolare, che godeva di buonissima stampa. Quest'anno il presidente Juventus ha fatto firmare l'intera squadra in, non so, 2 ore e 58 con 4 caffè. L'anno dopo, qui in 3 ore e 16 con 5 caffè. Sì, ma trattava con i giocatori e diceva: questo è prendere o quitter, direbbero i francesi, o lasciare. È un po' diverso rispetto a oggi, che ne dice? Sicuramente, anche perché oggi basta che arrivi qualche telefonata da qualche città dove c'è qualche importante squadra di calcio per ottenere anche un aumento di ingaggi. No, no, ma insomma è cambiato tutto. Cioè io credo che non si possano paragonare i due momenti, perché quello era un mercato chiuso, con il giocatore, il cartellino del giocatore di proprietà della società. E poi lentamente la richiesta, la conquista da parte dell'AIC della firma contestuale, ma sempre ancora subordinata a non le dico quante clausole, quante difficoltà, eccetera. E poi è arrivata la legge Bosman. Ora, io credo che quello di oggi sia probabilmente un eccesso, ma lo era anche quello di allora. E poi non so se lei è d'accordo o meno, insomma. Secondo lei? Dica. No, dico, secondo lei è giusto, quindi sarebbe nel mezzo? Sì, io poi non necessariamente nel mezzo, può essere in una delle due posizioni di mezzala, verso di qui o verso di là, però quelle delineate, cioè come oggi e soprattutto come era allora, erano posizioni abbastanza estreme, e quindi come tutte le posizioni estreme, insomma, io non e in ogni caso sono passati 30 anni, il mondo è cambiato molto più di quanto non siano cambiate le regole di ingaggio o reingaggio, come si chiamava allora, a proposito di sportivi in generale, ma di calciatori in particolare. Gigi, grazie. C'è da ascoltare Ranieri ancora, perché vi dicevo prima che la Roma ha chiuso la fase prenatalizia come squadra più in forma, certamente, per risultati, ma anche per un po' più di convinzione nei propri mezzi espressa in campo. Trova subito un ostacolo alto alla ripresa, che è quello di Cagliari. Sentiamo Ranieri. Quando rinizia dopo una sosta il campionato c'è sempre l'incognita come saremo, no? Per cui dovremmo essere invece determinati, perché il Cagliari è una squadra che, come noi, sta attraversando un periodo di forma eccellente, insieme al Chievo anche e al Parma, per cui sappiamo che in casa loro nelle ultime 5 partite hanno rifilato a chi 3, a chi 2 gol, per cui sappiamo che anno matri che ha eguagliato il record di un certo Gigi Riva e vorrà superarlo. Sappiamo di tutte le insidie che il Cagliari ci può mettere in campo, per cui noi siamo preparati. Non riesco a capire, scrive Francesco Barbieri da Verona, da dove traggano maggiori introiti le televisioni a pagamento nel far giocare Chievo Inter così presto. Beh, insomma, nello spalmare gli impegni, nello spalmare il calendario televisivo, nell'arricchirlo sull'arco più ampio possibile, sì, certo, è qui che ricavano maggiormente. Se ci sono 10 partite in contemporanea, evidentemente bisogna scegliere, no? L'uno o l'altro l'altra. Se ce ne sono 8 e ce ne sono altre 2, una prima e una parecchio dopo, c'è la possibilità, anzi, c'è la probabilità, oltretutto abbastanza alta, che il pubblico segua a pagamento, per l'appunto, non solo nella fascia 15-17, ma anche in quella 12-30, 14-30 e 20-45, 22-45. Mi sembra abbastanza semplice, insomma, come meccanismo. La vigilia laziale, prima ha chiamato un ascoltatore laziale, per l'appunto lamentando quello che i laziali lamentano oggi, cioè che questa politica, questa linea della fermezza, chiamiamola così, di Lotito non abbia pagato un granché, anzi alla fine con la sentenza Panner si è rivelata un boomerang. Sentiamo Brocchi. Dobbiamo sicuramente dare una svolta a quello che è il nostro campionato, dobbiamo cercare di arrivare a delle vittorie, ad un gioco più convincente, ad una anche sequenza di risultati che dovrebbe portarci in una posizione migliore in classifica, perché questa di adesso è veramente dura e complicata. È sicuramente un grande acquisto, nel senso che ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, e quindi spero veramente che possa arrivare con l'entusiasmo giusto e con la voglia di dimostrare quello che ha già dimostrato pochi mesi fa. E questo era Brocchi, che parlava di un giocatore che la Lazio evidentemente ha preso, che è Flocari, che oggettivamente lo scorso anno a Bergamo ha fatto benissimo, poi mi pare che l'impatto con Genova, sponda rossoblu, non sia stato positivo, e adesso c'è questa controprova nella Lazio. Abbiamo ancora un minuto circa di programma che mi sembra serva a ricordare gli appuntamenti di domani nostri. Allora, intanto vi dicevo la consueta diretta delle 14 con i commenti e il dopo partita di Chievo Inter in programma alle 12.30, la partita di domani all'ora di pranzo. Poi torniamo tra le 18 e le 18.30 per i commenti e le interviste al resto del programma pomeridiano, e cioè Atalanta-Napoli, Bari-Udinese, Cagliari-Roma, Catania-Bologna, Lazio-Livorno, Parma-Juventus, Sampdoria-Palermo e Siena-Fiorentina, e poi dalle 22.30 un'altra mezz'ora di commenti e interviste al resto, insomma al riassunto generale della giornata, ma in particolare al posticipo serale Milan-Genoa. Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, ringraziando Filippo Aureggi che è in regia, Flavio Suardi e Franco Piantanida che erano in redazione. Grazie a tutti per l'attenzione, appuntamento a domani.